Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Chiara Albicocco. Questa sera qui a Smart City affrontiamo un tema un po' inusuale. Se nel conteggio degli abitanti di una qualsiasi delle nostre città, sia italiana che europea, ci mettessimo i nostri amici cani e gatti, potremmo avere dei dubbi sul fatto che si arriverebbe facilmente a un raddoppio delle cifre della popolazione. Certo che c'è anche qualcuno che potrebbe dire, ma come, stiamo contando cani e gatti come abitanti? Ecco, la nostra risposta è sì, effettivamente sono cittadini a tutti gli effetti, ecco, però dobbiamo ammettere che qui a Smart City non abbiamo mai dedicato molto spazio a questi cittadini a quattro zampe, quindi stasera andremo un po' in controtendenza. Una delle più diffuse malattie di cani e gatti è certamente la dermatite allergica e anche la displasia. Dopo accurate ricerche, un'azienda, la Olipet, ha trovato dei tessuti che risolvono il problema. Sentiamo Gabriele Granelli, amministratore delegato dell'azienda, intervistato da Federico Pedrocchi. Gabriele Granelli, buonasera. Buonasera a lei. Lei è amministratore delegato di Olipet e mi dica subito, sommando cani e gatti, quanti ce ne sono in Italia? 17 milioni. 17 milioni. Oh, dunque, all'interno di questa vostra ricerca che ha portato a un prodotto di cui parleremo adesso c'è anche una raffinata ricerca di tipo tecnologico. Però so che lei è partito un po' da lontano per arrivare a questi tessuti. Eh sì, nasce da un grande amore perché io al tempo avevo un cane, nello specifico, che aveva problemi di dermatite atopica e nessuno riusciva a curarlo. Ho detto, ma non è possibile, ho girato lungo e largo e poi ho pensato, ma forse questa dermatite viene da un'allergia da contatto. E così si è rivelato, ho creato una cuccia perché ho un'azienda da 60 anni di famiglia nel campo dell'arredamento. E ho visto dei piccoli miglioramenti. Di lì ho detto, cerchiamo qualcosa che possa essere più igienico, più sanitario. Eh già. Non ho trovato niente. Allora, non ha trovato niente. L'ho fatto io. L'ha fatto lei. L'ho inventato, l'ho denominato Litex, ci ho messo tanto tempo, tanta energia, tanto investimento. E da lì ho creato la prima cuccia al mondo completamente igienica e sanitaria. Oh, questo è uno dei disturbi più diffusi, in particolare, se non sbaglio, proprio tra i cani. Cioè sono allergici ed è un disastro curarli. Con questo tipo di tessuti vengono protetti dall'allergia? Sì. Lei consideri che il 10% come statistica sono cani che sono soggetti alla dermatite o a allergie varie. Il nostro che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un letto che ha tutta una composizione particolare di mix di materiali che lo rendano sia allergico grazie alle proprietà del tessuto che le dicevo prima e grazie alla composizione della struttura un prodotto anche ortopedico, perché consideri che la displasia, altro grandissimo problema degli animali, quella di tipo B, si fa prima dire chi non ce l'ha di chi ce l'ha. È molto diffusa. Completamente, si vede solo però con lastre. Il proprietario del cane pensa che il cane stia bene, che non abbia niente, poi in realtà invece non è così. È un cane displasico. Lei sta parlando di cani, ma ci sono di mezzo anche i gatti nella vostra attività, no? È uguale. Sì, nel caso delle allergie anche i gatti. Anche i gatti. Tutte le cose da contatto creano allergia. Mi scusi però Granelli, che potrebbe esserci un fraintendimento, un'incompletezza. La cuccia ovviamente è un oggetto sul quale gli animali dormono e non risentono di attacchi allergici, ma è anche curativa e terapeutica. Certo, è un formidabile ausilio medico veterinario, perché previene l'insorgenza di patologie come le allergie e le displasie. Ok, questo è chiaro. Senta, costerà un po'. No? Sì, va bene, adesso non parliamo di prezzi, non è che siamo, però costa un po' rispetto ad altre, però forse contando il fatto che poi si spende l'ira di Dio in veterinari. Sì, ha capito perfettamente. E quello è il punto. Esatto. Lei ha già un rapporto con un investitore giapponese e lì la cosa sta andando molto bene, anche in Cina se non sbaglio. Giappone nello specifico. Giappone. Il gruppo Kimura è il nostro partner d'eccellenza per il Giappone. Lei consideri che adesso è riuscito a fare un accordo con l'Alfa Romeo Fiat per il Giappone e in Kyoto, Gifu, Ahimè, è negata, e con l'apertura di Odiba il 13 di settembre saranno presenti tutti i nostri prodotti negli showroom per inserire come oggetto all'interno delle bauliere delle auto. Ah, ma pensile, lì però sono veramente partiti in quarta, qua invece questa cosa è proprio non riesce ancora a farla girare, insomma non è entrata. Spenta, ci sono piccoli casi di interesse, ci sono distributori che però puntano più sul discorso. Olipet si divide in due linee, una linea diciamo più fashion, una linea più alla moda con prodotti più particolari, di cui fa parte anche la cuccia che parlavamo. Poi abbiamo anche una seconda linea, diciamo una linea un pochino più commerciale, che questa è stata fatta proprio per l'Italia, per far conoscere in maniera diciamo più soft il prodotto. Adesso vogliamo proprio vedere cosa succede, visto che insomma il problema delle dermatiti nei cani, nei gatti è veramente grosso. Granelli, grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie agli ascoltatori. Smart City finisce qui, vi auguro una buona serata, a domani.